24 mattino. Buongiorno, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi, ascoltatori, ben ritrovati. 349-238-6666 se volete scriverci per commentare la rassegna stampa che tra poco ascolterete. Buongiorno da Alessio Maurizi, from Si Può Fare, tu 24 mattino, l'ho già detto, lo ripeto, nel fine settimana tutto tornerà al suo posto, Alessandro Milan tornerà dalle sue vacanze a condurre 24 mattino e io a condurre il sabato e la domenica mattina Si Può Fare. E allora, adesso però dedichiamoci ai giornali di oggi e insomma si spazia dalla Brexit a Berlusconi, ai ballottaggi e naturalmente anche alla Francia dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto dal punto di vista del come si può dire, se non usando una parola, la parola casini dei tifosi, insomma tutto quello che non avremmo voluto vedere che sta accadendo. Il titolo principale del Corriere della Sera: tifo violento, Mosca sfida Parigi, convocato l'ambasciatore francese, arresti inaccettabili. Ci sono stati gli altri scontri a Lille, però Mosca ha protestato per i tifosi russi che sono stati arrestati in Francia dopo le violenze. Il ministro degli esteri di Mosca ha convocato l'ambasciatore francese, appunto, per usare questa espressione, arresti inaccettabili. Ora, non lo so se l'ambasciatore francese gli ha fatto vedere le foto degli hooligans russi che sono stati arrestati, quelli con le svastiche tatuate a tutte le parti, quelli ubriachi marci per controbattere qualcosa. Penso di sì, quindi probabilmente poi la discussione è finita lì, insomma. Però ahimè, il premier Valls, l'abbiamo appena sentito anche nel corso del giornale radio, ha rilanciato l'allarme terrorismo, ha detto, anche se so di generare un po' di preoccupazione, addirittura di panico, lo devo dire, avremo altre vittime innocenti. E questa è la situazione della Francia. Di questo si occupano anche altri giornali, naturalmente con titoli su questo argomento. Vi voglio però leggere, prima di passare agli altri argomenti, sulla situazione della Francia, il commento di Jean-Marie Colombani, che è l'ex direttore di Le Monde Diplomatique, che cerca un po' di salvare il salvabile, di dire non è tutto così nero in Francia, dove si stanno incrociando le proteste per il Jobs Act, il terrorismo e la questione del tifo degli hooligan, che è andata fuori controllo, sicuramente fuori dal controllo delle autorità francesi. Scrive Colombani, vista dall'esterno la Francia sembra sprofondata nel caos, addirittura nell'anarchia, come diceva il generale de Gaulle. Da una parte i dimostranti che non smettono di protestare contro la riforma del diritto del lavoro, dall'altra orde di teppisti e sovversivi che spaccano tutto quello che trovano sul loro cammino. Scioperi a destra e manca, un nuovo attentato terroristico che ha provocato la morte di un agente di polizia e della sua compagna e, in vista delle partite di Euro 2016, la discesa degli hooligans venuti stavolta dalla Russia per fare a botte coi tifosi inglesi avvinazzati con pestaggi di una violenza inaudita. Fin qua la fotografia dell'esistente e uno dice, questa è la situazione della Francia di oggi, una situazione nera, nerissima, ma, dice Colombani, la realtà vissuta dall'interno è diversa. Perché? Perché secondo la tesi di Colombani esiste una organizzazione che fa di tutto per rovinare la festa. Si tratta della CGT, è il principale sindacato francese. Questo sindacato si è messo alla testa della contestazione per respingere la legge del lavoro, la quale propone una riforma assai modesta del codice del lavoro, ma assolutamente indispensabile. Questo è il punto di vista di Colombani. Ha un paese che non riesce a uscire dalla disoccupazione di massa, sempre ferma al 10% della popolazione attiva. E poi il punto, se si guarda ai fatti e non a quanto percepito dall'opinione pubblica, queste manifestazioni trovano sempre meno adesioni. Il numero dei manifestanti si riduce e non ha mai raggiunto l'ampiezza, per esempio, delle proteste contro la riforma delle pensioni voluta nel 2010 da Nicolas Sarkozy. Gli scioperi a tutto campo indetti dalla CGT, il sindacato, nei settori delle raffinerie, delle centrali nucleari, dei trasporti pubblici e della raccolta dei rifiuti, non hanno mai paralizzato il paese. ci si è semplicemente dimenticati di una realtà, cioè che i sindacati ostili in Francia oggi sono una minoranza. Beh, una minoranza che riesce a farsi sentire. Il senso di questo commento è che c'è una minoranza che va in piazza e protesta e si unisce al coro di confusione generale che oggi regna in Francia per motivi esogeni come l'arrivo degli hooligans russi, questa è una minoranza che ha un potere sì di mobilitare l'opinione pubblica, ma la maggioranza dei francesi, nella maggioranza delle città, continua a vivere tranquillamente. Anzi, dice Colombani, si assiste alle vittorie della Francia sul piano sportivo a questi europei, anche con un po' di piacere, il piacere di assistere agli eventi sportivi. Ma sarà, ecco, questo è il commento dell'ex direttore di Le Monde Diplomatique, che cerca di ristabilire un po' l'onore della Francia, che sì, in effetti, dal punto di vista sportivo, ha messo a segno un'altra vittoria. E guarda adesso agli ottavi di finale dell'Europeo che va avanti. Non so se questo potrà bastare a tranquillizzare un po' tutti gli animi. Allora, Brexit è l'altro argomento. Costerà 30 miliardi di sterline, sempre dal Corriere, e Yellen dice, presidente della Federal Reserve americana, la banca centrale americana, preoccupa la reazione dei mercati. Sole 24 ore, le borse tentano il rimbalzo, la Fed però teme l'effetto Brexit. Borse europee in recupero interrompono la serie negativa innescata dai timori di Brexit, che preoccupa anche la Fed. Come previsto, tassi americani che restano invariati anche per prevenire le conseguenze economiche dell'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Restiamo su questo argomento. Brexit, la battaglia navale sul Tamigi, la fotonotizia a centro pagina della Stampa. C'è il Tamigi, si vede un battello con il vessillo inglese e anche la scritta leave, cioè lasciare, uscire dall'Europa, uno dei pescherecci con i vessilli pro Brexit allestiti dall'eurodeputato e leader dell'UKIP Farage, Nigel Farage, e quindi anche i turisti, chiunque passi al centro di Londra può vedere questi battelli per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che se ne vanno su e giù per il Tamigi. Un effetto scenografico. I sondaggi parlano di un testa a testa, ma di un leggero vantaggio per il no. Un commento in controtendenza ve lo voglio segnalare sul Giornale, il Giornale di oggi, che a firma di Nicola Porro, in prima pagina, che dice: siamo sicuri che la Brexit sia davvero una cattiva idea? È più che altro una domanda alla quale Porro risponde in maniera interlocutoria così. Dice: le popolazioni europee vedono il fallimento della dimensione pratica dell'Europa, tanto più le popolazioni europee vedono il fallimento dell'Europa, tanto più ne trovano insopportabili i costi, che non sono solo di bilancio, ma anche di progressiva riduzione degli spazi di sovranità nazionale. Brexit è un favoloso esperimento fatto nel laboratorio più concreto della nostra comunità. Gli inglesi votano contro l'Europa non per motivi ideologici, per cui i conservatori di Margaret Thatcher dicevano no, no, no all'Europa. Votano contro perché non serve, semplicemente. Ecco, questa è la tesi di Porro, il pragmatismo degli inglesi. Tanto che la polemica, prosegue, non solo britannica, non è sull'opportunità politica, ma sui possibili costi. Poca filosofia, molta ciccia. Il ministro delle finanze tedesco ammonisce gli inglesi, Schäuble, non già per la rottura di un patto, non cita Adenauer, Spinelli e via discorrendo, ma più prosaicamente minaccia il Regno Unito di farlo uscire dal mercato unico dei commerci. Quindi la realtà di questo voto è un voto concreto, secondo il Giornale, per cui, secondo Nicola Porro, l'Europa non serve alla Gran Bretagna, che se ne vuole uscire. Poi c'è un passaggio semiconclusivo nel quale dice: dove non passano le merci, passano i cannoni. Quindi attenzione, è l'avviso di Nicola Porro, che però poi conclude: ma è anche vero che il governo dei burocrati europei non può essere la soluzione. Quindi un commento un po' in controtendenza rispetto agli scenari di preoccupazione che riguardano Brexit. Torno sul Sole 24 Ore per la notizia che riguarda la stretta contro i furbetti del cartellino, è l'altro titolo principale, modello standard per la scia semplificata alla conferenza dei servizi, questo è l'altro argomento uscito dal Consiglio dei Ministri di ieri, ma il piatto forte è arriva il licenziamento lampo per i dipendenti pubblici che timbrano il cartellino e se ne vanno. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la misura con le nuove regole, sospensione cautelare entro 48 ore, procedimento disciplinare che dovrà concludersi entro 30 giorni, previsto il licenziamento anche per il dirigente che non avvia il provvedimento. E come sempre il Sole 24 Ore si esercita con il rating sulla efficienza di questa misura e prese una per uno il cuore in tre parti di questa misura, di questa stretta contro i furbetti, sono i 30 giorni per il verdetto definitivo che il Sole 24 Ore valuta in una efficacia elevata, cioè una misura efficace, mediamente realizzabile, molto efficace anche il licenziamento anche per il dirigente che tarda con la sanzione, molto efficace anche qua, una realizzabilità media, cioè attenzione perché poi bisogna vedere se si riesce a farlo. Dove invece il giudizio è negativo sull'efficacia e sulla realizzabilità è il risarcimento misurato sulla fortuna mediatica del caso, perché sapete che il risarcimento varierà a seconda del rilievo mediatico della notizia del caso di assenteismo, perché si dovrà tamponare, questa è la ratio voluta dal governo, a danno di immagine provocato dal caso di assenteismo alla PA, una misura appunto poco efficace e poco realizzabile secondo il Sole 24 Ore. Mattino. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, la notizia dell'approvazione in Consiglio dei Ministri della norma sui licenziamenti degli assenteisti trova spazio anche su altri giornali. Statali, licenziamenti sprint, scrive il Messaggero, il Giorno, statali, colpo ai fannulloni e così via andare. Non c'è la notizia invece, per esempio, su un giornale come Libero che titola, tanto per leggere un altro titolo principale, su le stravaganze all'italiana, hanno ragione gli spazzini. E uno dice, ma di cosa staranno parlando? Invece la notizia è questa, le nostre città sono sommerse dall'immondizia, non sempre, non da tutte le parti per dire il vero, ma insomma per lo sciopero dei netturbini, scrive il Libero, che prendono la stessa paga di alcuni anni fa, mentre la tassa sui rifiuti è aumentata più del doppio, assurdo. È il commento affidato a Vittorio Feltri. Invece, fatemi leggere, a proposito di Berlusconi, il commento di Pierluigi Battista, la solidarietà, parentesi, tardiva all'uomo nero. È così che dice Battista. Il livore d'un ventennio contro Berlusconi, visto come l'uomo nero, si scioglie in solidarietà. Anche gli avversari irriducibili sentono che il suo cuore deve battere ancora. Ma sì, alla fine anche gli avversari, i nemici che in tutti questi anni lo hanno preso a simbolo del male, il corruttore, il feroce caimano, l'uomo nero, il dittatore, il tiranno, il satrapo, il drago, sentono che il cuore di Berlusconi deve continuare a battere per lui, ovviamente, ma per tutti noi. E insomma, certo, fioccano le ironie sul cavaliere che al risveglio dopo un'operazione delicata fa il galante con l'infermiera, si sprecano sui social i ritocchi dell'immagine di Francesca Pascale che lacrima affranta sul balcone ma poi finisce lì. Il livore è il residuo di pochissimi e tutti che incoraggiano Berlusconi, dai Silvio, forza Silvio, e lui pure che dice non gli dispiace l'Italia che gli vuole bene, meglio così, ci dimostriamo un po' civili per una volta, mettiamo la politica da una parte e la vita dall'altra, italiani brava gente o no. E poi insomma va avanti il commento di Battista che insomma, per dire che non era affatto scontato che l'infermità di Berlusconi, l'intervento al cuore, la battaglia contro la malattia avrebbero sollecitato una solidarietà così estesa. Ma attenzione, perché conclude Battista, la prospettiva di un'Italia senza Berlusconi ha colpito con una malinconia in attesa anche l'anti-berlusconismo più acceso. È il famoso effetto nostalgia canaglia di quegli anni lì, degli anni 90 forse, da parte di molti. E poi conclude Per il momento però, perché se poi per il cavaliere suonasse l'ora dell'ennesima risurrezione, forse si ricomincerebbe da capo, sottinteso con la demonizzazione di Berlusconi. Da Berlusconi a D'Alema, i due opposti, perché insomma hanno fatto discutere, almeno nell'ambito della sinistra, le parole attribuite a D'Alema sul fatto: a Roma voterei la Raggi anziché Giachetti, che è il candidato del suo partito, pur di mandare a casa Renzi. Goffredo De Marchis, cronista di Repubblica, di fronte alla smentita di D'Alema, che dice: mai pronunciate queste frasi qua, dice: momento, ti dico dove le hai pronunciate. E replica: Repubblica è in grado di confermare interamente il contenuto dell'articolo e di precisare nel dettaglio, in maniera più ampia, come si sono svolti i fatti, che nella strategia dell'ex segretario del DS servirebbero a provocare la caduta del governo Renzi. Abbiamo ricostruito 3 diverse riunioni in cui sono state pronunciate quelle parole, testimoniate da diverse fonti: una a Bari con i socialisti dissidenti, una lunedì scorso alla Fondazione Italiani Europei, una a Bari, una con i socialisti dissidenti e la terza a lunedì scorso alla Fondazione Italiani Europei. In quella sede si è tenuta una riunione del comitato scientifico di un convegno che verrà celebrato in autunno, celebrato da Italiani Europei insieme a Magna Carta, l'associazione del senatore Quagliariello, sul tema il bilancio di 20 anni di bipolarismo italiano. Repubblica ha l'elenco completo dei partecipanti alla riunione e ha contattato 3 di loro per verificare l'esattezza delle frasi pronunciate da D'Alema su Renzi, sul ballottaggio romano, sul referendum costituzionale. Tutte queste fonti hanno offerto una versione univoca delle dichiarazioni del premier. Se vince il sì al referendum, ha detto D'Alema davanti a tutti, me ne vado dal Partito Democratico, prefigurando la scissione. E a proposito del voto a Roma, ha detto: voto la Raggi per mandare a casa Renzi. E quindi, insomma, questa è la notizia che da un certo punto di vista potrebbe, forse anche è un boomerang nei confronti di D'Alema e di quella parte politica lì, perché la maggior parte, credo ormai, degli elettori, non so, dei militanti del PD forse, ma degli elettori, si immaginano D'Alema come un vecchio trombato della politica che sta lì a sentenziare, ma ormai non conta più nulla, con tutto il rispetto. Allora, insomma, su Repubblica c'è anche la scelgono di presentare la foto di Nichi Vendola col suo compagno Ed e il figlio Tobia, abbracciati mentre baciano il bambino in Canada, a casa Vendola. Io, Ed e il nostro figlio Tobia, nella villetta di Mattoni Rossi, nella zona nord di Montreal. Nichi Vendola mi dice che mai, questo è Francesco Merlo che scrive, quando era ragazzo a Terlizzi in Puglia, avrebbe potuto immaginare di avere un giorno un marito canadese e un figlio americano. Tobia non è nato qua, ma a Sacramento. L'atto di nascita è stato compilato all'anagrafe californiana, dove la legge consente di scrivere quello che vuoi. Il padre biologico è Ed. In questo modo, dice Vendola, Tobia è più tutelato, e non solo perché Ed è canadese e italiano. Segue una lunga ricostruzione di come stanno vivendo in Canada, di come insomma Vendola racconta che vuol stare lontano dai riflettori perché non permetteremo che il corpo di nostro figlio diventi una bandiera dei diritti civili. Poi sull'utero in affitto dice: capisco che, a parte la bestialità razzista e omofoba, ci sia un pezzo d'Italia per bene che possa sentirsi disorientata, capisco che si spacchino anche la sinistra e il femminismo, penso che se vedessero, se giudicassero in concreto e non in astratto, capirebbero tutto subito. Prima di decidere, noi abbiamo frequentato molto le famiglie arcobalene, avevo i dubbi anch'io, ma la realtà ci ha mostrato la strada. La gestazione per altri è la risposta della scienza al bisogno di famiglia, è una difesa della famiglia che va protetta dalla violenza contro le donne, dal femminicidio, dalla sordida prepotenza domestica, non dalla scienza. La maternità surrogata è praticata soprattutto dalle coppie eterosessuali. È probabile, qua è una frase impegnativa, che tra una 20 d'anni, come prevede Veronesi, sarà molto diffusa anche in Italia. Si riderà di tutte queste resistenze. Sarà, intanto, se ne discute e divide le coscienze. Adesso, invece, è il momento di unirsi tutti attorno a Mauro Meazza. Ciao Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessio. Sì. Uniamoci idealmente tutti attorno a Rita, mi verrebbe da dire. Ah, è tornata Rita. Ti ho ti ho presentato ieri Rita, sì, che appunto è la rendita integrativa temporanea anticipata. E anche oggi su Sole 24 Ore torniamo sulla questione dell'anticipo delle pensioni, a cui chiariamo sempre si sta ragionando con decorrenza 2017, quindi non è successo ancora niente. Non c'è fretta. Ne stiamo parlando e via via la cosa prende forma. E allora, prende forma da una parte con APE, l'anticipo pensionistico, quindi avere la pensione già in anticipo rispetto ai tempi prefissati, e poi con Rita. Ma oggi vada sul Sole 24 Ore a pagina 10 una serie di spiegazioni e anche di tabelle. Oh, ho visto che ti ha molto appassionato la vicenda dei furbetti del cartellino. Sì, certo. Chiaramente ha suscitato anche sempre tanta curiosità sui giornali, sui mezzi di comunicazione. Ti voglio segnalare che ieri è stato anche deciso il primo passaggio per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego con la riduzione dei comparti, perché adesso ce ne sono 11, bisogna andare a 4. Sarà una trattativa difficile, lo spiega Gianni Trovati nelle due pagine che dedichiamo alle varie decisioni appunto poi, che riguardano la pubblica amministrazione. Mauro, in un'altra vita mi spiegherai se è una buona notizia questa riduzione dei comparti, perché non sappiamo bene come ha degli ottimi obiettivi, perché vorrebbe semplificare il trattamento e anche far ripartire l'adeguamento dei contratti, però chiaramente non sarà una trattativa facile, sì, perché la riduzione dei vari comparti dovrebbe comportare anche delle revisioni, potrebbe comportarle pure al ribasso. Oh, non vorrei che tu ti dimenticassi la scia, te la stavi dimenticando. Rita, APE, scia, tutti Rita, assieme APE, appassionatamente. La scia, cioè quella comunicazione che tu devi fare per l'inizio dei lavori, sì, in casa, ecco, semplificata, avviata la semplificazione anche lì, decorrerà dal 2017 con dei modelli standardizzati, quindi il tutto dovrebbe diventare più semplice. Ho sempre un brivido lungo la schiena quando sento parlare il governo di semplificazione, qualunque governo, perché il terrore è che poi le cose in realtà si complichino sempre di più, ma insomma questa bisogna essere ottimisti, ci vuole fiducia, ci vuole fiducia. Tax Day, quindi oggi sai che è vero. Ecco, e quindi perché non essere ottimisti nel Tax Day? Giusto. Ricordati che devi pagare se l'hai. Sì, va bene, Mauro, ti prego. Vabbè, niente, te lo voglio dire, così come ti voglio dire. Io non so come tu ti comporti con i due urini che hai da parte, se per caso sei capitato in Svizzera, ti sono caduti in un cavo di una banca locale. Io questo non voglio saperlo. Sappi che la Svizzera è pronta alla trasparenza e allo scambio di dati e di informazioni con tutta l'Unione Europea. Quindi lo riferiamo in norme e tributi che tu leggerai religiosamente anche oggi. Durante la pausa caffè. Si può leggere norme e tributi anche durante la pausa caffè, lo confermo. Oh, guarda che poi ci sono delle istruzioni, questo interessa molto specialmente le imprese, istruzioni congiunte dall'Agenzia delle Entrate al Ministero del Lavoro sulla detassazione dei premi di risultato. È una misura della legge di stabilità, un sollievo fiscale, quindi lo diciamo. Questa mi sembra una cosa importante a naso, non essendo naso un grande esperto, ma insomma. E il naso non ti inganna, lo troverai naturalmente su norme e tributi. Oh, e poi invece ti consiglio, in ultimo, ma non per questo meno importante, Finanza e Mercati, le cui pagine vanno sempre lette avidamente. Certo. Che anche negli Stati Uniti stanno varando dei nuovi criteri contabili per le sofferenze bancarie, sai i famosi NPL, ecco anche lì hanno un po' di questioni da sistemare con le loro banche, quindi il locale organismo che si occupa dei criteri contabili sta decidendo una regolamentazione più severa. Tutto quanto e molto altro naturalmente su Finanza e Mercati. Mattino. Buongiorno, ben ritrovati ascoltatori. Allora, buongiorno da Alessio Maurizi. Andiamo come coda di quanto appena spiegato anche da Mauro Meazza, proprio del Consiglio dei Ministri di ieri, perché ce lo ricorda il giorno in prima pagina. c'è la foto di un kebabaro fuori i kebab, centri storici, i comuni tuteleranno i negozi della tradizione. Di che si tratta? Si tratta di una cosa anticipata di cui fino ad ora si conosce soltanto la ratio generale, ma insomma è una norma, scrive Il Giorno, anni di attesa e alla fine i sindaci, non so se c'erano veramente anni di attesa su questo, può darsi, alla fine i sindaci italiani avranno uno strumento vero per combattere il degrado nelle città. Sì, perché nel decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che ora dovrà subito dovrà subire l'esame del Parlamento, non di sole botteghe storiche si tratta. Il ministro per i beni e le attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha per ora reso nota solo la sintesi del decreto, ma la norma sembra già parlare chiaro. La legge prevede, ha spiegato il ministro, che i comuni, d'intesa con le regioni, possano individuare zone aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui vietare o subordinare ad autorizzazione l'esercizio di attività commerciali non compatibili con le esigenze di tutela, oh mamma non ce la faccio più, e valorizzazione del patrimonio culturale, tutto in burocratese, per dire che in certe zone delle città d'arte italiane, come per esempio ha fatto già Firenze nel centro storico tutelato UNESCO, non si potranno aprire negozi e commerci che non sono compatibili con questa valorizzazione del patrimonio culturale. In sintesi, il kebabaro, stop ai kebabari nei centri storici tutelati, eccetera eccetera. Non solo i kebab, probabilmente, perché tutto sta a capire chi è compatibile e chi non è compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ma insomma, una norma che può avere un significato di valorizzazione, soprattutto se poi ci mettiamo anche degli incentivi, pensiamo economici, a tenere aperte librerie, teatri, cinema nei centri storici delle città dove i turisti possono venire e godere anziché solo del kebab, giustamente, ma anche del panino, del paninazzo, della banale pezzo di pizza, anche di altre attività culturali che penso queste sì, saranno ritenute compatibili con tutto ciò. Allora, dal Fatto Quotidiano invece vi voglio dare un'altra notizia che riguarda i referendum e la comunicazione politica, perché i dati dell'autorità per le comunicazioni, garante per le comunicazioni, dicono: par condicio a rischio sul referendum alla RAI, 7 ore a Renzi, 79 secondi solamente al no. Parliamo della propaganda referendaria. Succede che i dati monitorati dall'autorità per le comunicazioni, l'AGCOM, sono dati grezzi, tabelle grezze, danno l'idea dell'aria che tira nella TV di Stato, scrive il Fatto Quotidiano, rispetto alla madre di tutte le sfide, come la chiama il Premier, ovvero il voto che tra qualche mese gli italiani saranno chiamati a dare alla riforma Boschi. I dati sono grezzi, riguardano solo il monitoraggio riferito al referendum costituzionale. E martedì scorso le opposizioni avevano chiesto un'audizione al direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, per chiedergli conto dell'occupazione di governo a sostegno del sì nelle reti RAI. Ora questi dati dell'AGCOM dimostrano che non si trattava di un vaneggiamento. 7 ore a Renzi e un minuto e 19 secondi, 79 secondi ad Alessandro Pace, uno dei più importanti costituzionalisti e presidente del comitato per il no. Chiudiamo con gli europei di Francia. Ibra, ancora tu, prima pagina della Gazzetta. Ma non dovevamo vederci più? Domani alle 15 c'è Italia-Svezia. Nel frattempo, cosa prevede la formazione dell'Italia di Conte? Le ultimissime, non dovrebbe cambiare niente. Forse entra De Sciglio al posto di Darmian. Tutti confermati gli altri, insomma, gli altri 11, a cominciare dalla super difesa Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, ma poi Parolo, Giaccherini, Candreva, De Rossi, Pelle Eder e De Sciglio forse appunto al posto di Darmian. La Francia va avanti, come detto, beata lei, due vittorie, conquista già gli ottavi di finale quasi sicuri. 6 punti davanti alla Svizzera che ne ha 4, la Romania che ne ha 1, l'Albania 0 punti. Questo è il girone della Francia. Oggi si giocano altre 3 partite. c'è Inghilterra-Galles, un bel derby, Ucraina alle 15, alle 18 Ucraina-Irlanda del Nord, altra bella partita almeno sulla carta, Germania-Polonia è il piatto forte di questa sera alle 21 e domani tocca all'Italia. È tutto, Giornale Radio, poi arriva Oscar Giannino, noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30, ciao a tutti da Alessio Maurizi, buona giornata.